tempo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. È uno dei protagonisti della nuova scena musicale rap. Un album in due parti. Prima Scusate, ora Scusate se esistiamo. Si chiama Dani 5. Facciamo un inno, una rivincita per tutte le persone che vengono criticate solo per moda o insulto. E quindi con questo odio andare un po' contro tendenza e rispondere con un gesto che nessuno si aspetterebbe, chiedendo scusa. Nel mio caso è Scusate se esistiamo, scusate se produciamo, se facciamo musica. Scusate se proviamo a far emozionare qualcuno, ognuno lo impersonifica in base anche alla sua vita. Appena hai cominciato a farti vedere, farti sentire, è arrivato un certo Salmo che ti ha fatto, insomma, particolarmente notare. Sei stato nella compilation Macete, quella compilation è rimasta settimane tra le più scaricate, vendute, streaming, eccetera. E quindi c'è molta attesa in realtà per i tuoi nuovi progetti. Cosa hai fatto anche per questo? Hai cominciato con una parte e poi con l'altra? Diciamo è stata una scelta molto pensata, cioè visto che sono 18 tracce, per alleggerire l'ascolto sicuramente era la cosa migliore, però in realtà è per anche lì andare contro tendenza in un momento dove l'hype e il personaggio sono più importanti della persona e della musica. Abbiamo preferito appunto fare il contrario, cioè far parlare la musica con altra musica. Il linguaggio è anche, non solo, in alcuni punti molto crudo. Che rapporto hai con questo tipo di espressioni che comunque fanno parte del rap? Se hai voglia di dire qualcosa e per farlo arrivare nel migliore dei modi, secondo me tante volte bisogna anche dare uno schiaffo morale, no? Quindi secondo me non dobbiamo aver paura, ma anzi alzare la voce, farci sentire, purché appunto sia un messaggio positivo. Io non ho paura di quello che porto, quindi metto parolacce o metto cose, ma ripeto, per aggravare quello che sto dicendo, dargli ancora più peso. Come in un film, non puoi togliere lo splatter da un film di Tarantino, perderebbe di arte. Dio che ci ha costruito male, è che vogliamo un po' volare, però noi non siamo fate. Non segui la mia casa, però come mai da me? Non so come fate. Se vuoi una rosa posso farti bere un fiustino, grande come il mare. Se vuoi trasferirci dati, però non siamo PC, sai. Solo il gin che ci scioglie e un po' mi odi, perché non ho mai saputo darti. Weekend a Miami, io sì, tu no. Weekend a Miami, io sì, tu no. Weekend a Miami, io sì, tu no. Io sì, tu no. Io sì, tu. Diamo un messaggio secondo me più o meno giusto. Per la maggior parte dei ragazzini il messaggio figo di oggi è: devo spacciare per arrivare a comprarmi una Gucci. Cioè dovrebbe essere: vai a fare dei sacrifici, impara il valore dei soldi, tienili invece di spenderli per una borsa da 1.000 euro. Invece vedo anche, vabbè, genitori che sicuramente assecondando le scelte del figlio non aiutano. Però nel mio disco sì, c'è questa parte, perché appunto è così. È un film che si chiama, non so se conosci, La Montagna Sacra, e lì c'è uno dei quattro dei rappresentati in questo film. Uno di quelli vive in questo pianeta dove la gente paga un servizio per farsi cambiare. C'è un po' come i filtri di Instagram, però nella verità. Quindi con la maschera, come ti piace di più, perché appunto la gente vuole essere amata per ciò che appare, non per ciò che è. Però è brutto voler essere amati per ciò che si dà a vedere, cioè si appare. Secondo me è una cosa un po' povera. Vista con Dani 5. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato, con Social Village e Social Network, in diretta dalle 16.